con l'editore Marcello Baraghini per parlare della 18ª edizione del Festival di Letteratura Resistente a Pitigliano il 7 e 8 settembre 2019. Marcello, ben trovato. Trovati voi che vi ricordate ogni anno di darmi voce, cosa che non fa più nessuno ormai della comunicazione di regime. Quindi grazie, grazie, grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. Il festival è un titolato intanto Bisogna pubblicare ed essere maledetti ed è un tributo ad Assange e a Wikileaks, perché è un festival che ha come epicentro la pratica e il recupero con tutta la dignità possibile della controinformazione. Una volta in anni non sospetti, anni 70, molto coinvolgente, molto forte, oggi abbandonata dalla comunicazione di regime, lasciata in balia di pochi come noi, delle strade bianche di stampa alternativa, che la riprendiamo da capo per proporla, ma anche per dialogare e implementare il nostro progetto, il progetto delle strade bianche di stampa alternativa, la mia nuova casa editrice, il progetto di evasione dal mercato e di riscrittura nella pratica quotidiana editoriale delle regole, per amore del lettore e a favore del lettore, e potremo anche in qualche secondo, se riterrai, approfondire. Quindi due tematiche, controinformazione e di evasione dal mercato per un nuovo sistema di rapporto, una nuova etica di rapporto con il lettore. Come si articolerà l'edizione di quest'anno? Il sabato apre, ma tanto per fare onore a lui e alla controinformazione degli anni ruggenti e alla resistenza tuttora, con Vincenzo Sparagna, che non solo racconterà le sue provocazioni editoriali antisistema e antiregime, ma proporrà all'attenzione il padre artista di grande qualità, di grande prestigio, mai coinvolto da regole del mercato, per andare poi a far parlare, raccontare gli amici, la tribù di Chapek, che è la rivista più sconveniente del mondo, che racconterà in corso durante il festival la realizzazione del numero 2. Per ora è uscito il numero 1, sarà esaurito, ristampato, che reca in copertina il prezzo lo fa il lettore, e in quarta di copertina della rivista Chapek non c'è codice a barre, non c'è copyright, c'è gratuità in rete e, dicevo prima, il prezzo lo fa il lettore. Dopodiché c'è gli anni 60. Il pomeriggio io ho inteso recuperare la bellezza, la lotta, la resistenza, la passione di quegli anni che anticiparono e furono linfa per compreso il 68, ma anche per il decennio successivo. Sono anni che pochi ricordano, di cui poco si parla. Noi ne parleremo molto con Alessandro Manca per I fiori chiari, il libro dei Capelloni a Milano negli anni 66-69, con Daniela per gli anni 69-76. Per chiudere la serata, Angelo Olivieri, uno dei grandi giovani del jazz, in quartetto, con, come lui dice, musica resistente. Per passare la domenica al vincitore del premio Stregone numero 2, senza inciuci e senza finzioni, quindi narrativa sociale, racconto sociale, e in bellezza un laboratorio per i bambini farsi un libro. E per tutte le informazioni ci dai anche i riferimenti Io internet? vi do senz'altro il sito Strade Bianche Libri, che tu ben conosci.com, poi vi do la mia pagina Facebook Marcello Baraghini, nuovo editore dopo 50 anni delle Strade Bianche di stampa alternativa, che rinasce dopo svariate avventure e provocazioni, rinasce con le caratteristiche che prima dicevo, ed un telefono, chiamate chiunque voglia, quanto vi pare, al 0564 615317. Aggiungo solo, per farci onore, fare onore a chi verrà, il festival non ha sponsor ed è gratuito. Benissimo. E allora ricordiamo la 18ª edizione del Festival di Letteratura Resistente a Pitigliano il 7-8 settembre. Sabato 7, domenica 8, bisogna pubblicare ed essere maledetti, ma io vi do un'anticipazione perché ve la meritate. Stiamo già lavorando per il 19° festival, sempre seconda settimana di settembre del prossimo anno, dedicato alle librerie indipendenti italiane, per continuare in bellezza, in lotta, in resistenza, in passione e in coinvolgimento e in complicità con i lettori. Un saluto e un ringraziamento all'editore Marcello Baraghini. Un abbraccio e a presto, ci vediamo lì. Buona giornata, ciao.